Il progetto nasce per sensibilizzare i giovani e i ragazzi sui temi dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. Ed è un progetto finanziato da un bando che si chiama Educazione alla cittadinanza globale, appunto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. E qual è lo scopo di questo progetto? Lo scopo del progetto è sensibilizzare i giovani e gli studenti e le studentesse e attivarli per proporre un cambiamento nel loro territorio d'origine. Cosa è dovuto questo nome? Agente 0011 deriva un po' dall'idea che voi giovani avete una missione segreta come Agente 007. Il numero 11 invece si riferisce all'obiettivo di sviluppo sostenibile, il goal numero 11, che è l'obiettivo che si concentra proprio sullo sviluppo sostenibile delle città e degli insediamenti urbani. A chi è rivolto? Ai giovani, agli studenti e alle studentesse. Infatti stiamo facendo un progetto di alternanza scuola-lavoro con voi ragazzi dell'Istituto Superiore Manfredi Tanari qui a Bologna. All'interno del progetto Agente 0011 la nostra classe si è occupata della comunicazione. Per iniziare e capire meglio ciò che avremmo dovuto comunicare, noi ragazzi abbiamo fatto una passeggiata di quartiere nell'area di Croce del Biacco, durante la quale abbiamo visitato le diverse realtà presenti nella zona. In particolare, i posti dove siamo stati sono il centro anziani, il dormitorio per le persone senza fissa dimora di via Pallavicini, dove la responsabile Antonina ci ha fatto incontrare alcuni ospiti e ci ha raccontato le origini del posto e i servizi che offre, e infine la moschea. Qui siamo stati accolti da Adele, che ci ha guidati nella visita del posto e ci ha raccontato la sua storia. Sentiamo ora cosa ci dice Davide a proposito di questa esperienza. Siamo qui con Davide, che ha partecipato al nostro progetto Agente 0011. Adesso gli faremo alcune domande. Come ti è sembrato il quartiere? Da come me ne avevano parlato mi aspettavo molto di peggio. Il quartiere mi è piaciuto molto, molto colorato, molto vivo, quindi sì, così. Cosa ti ha colpito in particolare? Mi è emozionato molto vedere la moschea, anche se non è una vera e propria moschea. Non mi aspettavo ci fosse, non avevo mai sentito parlare, mi ha emozionato davvero tanto. E chi avete incontrato e cosa vi siete detti? Come dicevo prima, abbiamo incontrato il custode della moschea, che poi era un centro di culto islamico. Il custode si chiamava Adan. È stato un confronto molto interessante, l'ho apprezzato particolarmente. Poi abbiamo anche parlato con altre realtà locali, tra cui questo dormitorio, un centro anziani, quindi è stato bello vedere un po' tutte le varie associazioni che operano in quella zona e le diverse realtà che ci sono. Grazie Davide. Grazie alle informazioni che abbiamo raccolto, con il supporto di un esperto in videomaking, abbiamo girato e montato un video in Piazza dei Colori, che racconta la sua storia e situazione. Per noi è stata un'occasione molto interessante e formativa, che ci ha fatto avvicinare al mondo del videomaking. Come scopriremo meglio nelle prossime puntate, Piazza dei Colori è un luogo con una storia particolare, non sempre facile, su cui insisteranno i progetti che abbiamo elaborato e che scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, ascoltiamo un po' di musica. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y zumba de DJ y otra vez pa' quedar. village and yes, she just calling Ari. Everywhere me go, me never left far at all. You say that I miss me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, all in a nation. You never know, say that I miss me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching at the top. So we in onda. Noi siamo sempre i ragazzi della quarta BFM della scuola Manfredi Tanari di Bologna e quella che state ascoltando è sempre una delle tre puntate della trasmissione che abbiamo realizzato per raccontarvi il progetto Agente 0011 a cui abbiamo partecipato. Fino a questo momento vi abbiamo raccontato a grandi linee in cosa consiste il progetto, della passeggiata di quartiere che abbiamo realizzato e del video che abbiamo girato. Ma il nostro lavoro non è finito qui. Se siamo qui, ora, è perché il progetto ci ha coinvolti anche nella comunicazione via radio. Abbiamo incontrato Alessandro, direttore di Radio Città Fuji, che ci ha introdotti al mondo radiofonico spiegandoci come funziona una redazione e come realizzare un podcast. La nostra compagna Umaima ci racconta nel dettaglio il laboratorio. Ecco qui Umaima, adesso ci parlerà dell'incontro con Alessandro. Chi è Alessandro? Allora, Alessandro è il direttore di Radio Città Fujiko ed è venuto da noi in classe per presentarci come si lavora attraverso la radio e come possiamo inserire la nostra attività nella radio. Ti è sembrato interessante? Cosa avete imparato? Mi è sembrato molto interessante a me e ai miei compagni perché non abbiamo mai assistito o non abbiamo mai imparato, ecco, come si lavora attraverso la radio, e abbiamo imparato molte cose e abbiamo capito che la struttura della radio è molto complessa. Va bene, ringraziamo Umaima, molto gentile. Concordiamo con Umaima che sia stato un lavoro molto interessante da cui abbiamo imparato tanto. Il nostro progetto di comunicazione si conclude in un lavoro di sensibilizzazione con i bambini delle scuole elementari e medie. Attraverso attività ludiche legate al tema dell'inclusione abbiamo cercato di far capire loro l'argomento affrontato e le attività che abbiamo svolto, in modo da trasmettere loro quanto è stato trasmesso a noi dagli esperti che abbiamo incontrato. Di questa esperienza ce ne parla Rita. Siamo qua con Rita e adesso ci parlerà del progetto svolto nelle scuole primarie. Che attività avete fatto con i bambini? Allora, abbiamo fatto delle attività riguardanti temi dell'inclusione e della sostenibilità e attività tradotte in giochi, prima per presentarsi, poi per andare al sodo dell'argomento, soprattutto riguardo l'inclusione, e infine abbiamo fatto una breve discussione su quello che è emerso da questi giochi. Qual era lo scopo di queste attività? Far capire che comunque l'inclusione è un grave problema nella società odierna, soprattutto si verifica molto nelle scuole, nelle classi, per esempio c'è quello meno simpatico, quello più bulletto, che tende a escludere gli altri, eccetera, invece appunto l'inclusione gli abbiamo fatto, diciamo, arrivare il messaggio che comunque tu non devi escludere nessuno, anzi devi includere più gente possibile per non farla sentire isolata, sola. Cosa è emerso in particolare dai bambini sui temi dell'inclusione e della sostenibilità? Beh, dato che alla fine abbiamo fatto, diciamo, un dibattito su quello che è emerso, principalmente i bambini si sono soffermati sui sentimenti che gli altri provano quando vengono esclusi e invece i sentimenti che provano quando invece vengono inclusi. Per esempio, esclusi ci restano molto male, dicono cavolo, se fosse capitato a me una roba del genere, mentre inclusi invece erano molto felici, molto contenti, non gli era mai capitato, eccetera, quindi sì, sono stati molto contenti. Grazie Rita. Ogni estate sei più bella come quelle della pubblicità, macchina piena, se partiamo le tre di notte il casino lo evitiamo, passiamo l'inverno contando le ore del giorno. Viviamo l'estate sperando che duri in eterno. Sul bagnasciuga che sorridi al sole, con le tue gambe da fotografare, sei giorni di fuoco da documentare. Ma poi non ho più spazio sul cellulare e adesso come faccio a far vedere che ero al mare? Volevo farmi un altro selfie con te prima che sia settembre. Che se non ho gigabyte. Dei sorridi fa una storia il tramonto non ci aspetterà. Questa sera cena fuori, quanti like vale quel vestito a fiori? Le labbra salate di quando ti bacio la pelle. Magari saliamo sul tetto e guardiamo le stelle. Sull'unicorno sola in mezzo al mare. Io che ho contratto per un nuovo occhiale. Il bagno dopo pranzo che mi fa star male. Ciao mamma, qua tutto bene. Non ho più spazio sul cellulare. E adesso come faccio a far vedere che ero al mare? Volevo farmi un altro selfie con te prima che sia settembre. Sei nella mia memoria ormai, anche se non ho gigabyte. Piace da starci male, anche se non sarà più stagione, ti riporto qua. E che sapore avrà? Ed hai cambiato taglio di capelli, i tuoi sorrisi sempre quelli di qualche estate fa. E di un'estate fa. Non ho più spazio sul cellulare. E adesso come faccio a far vedere che ero al mare? Volevo farmi un altro selfie con te prima che sia settembre. Sei nella mia memoria ormai, anche se non ho gigabyte. Anche se non ho gigabyte. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, che è riascoltabile sul sito di ActionAid e Radio Città Fujiko. Nella prossima i nostri compagni di classe vi racconteranno nello specifico la storia, gli aspetti positivi e quelli problematici di Piazza dei Colori. Grazie per essere rimasti all'ascolto. Ciao! Entra dentro la mia testa, yeah. Sto col culo su una Tesla. Addosso roba pesante. Manco lo immaginavo questo. Mamma guarda come vola adesso. In un 5 stelle prima stavo nel campetto. Spera ne fa un'altra, Gigi versa succo denso. Mamma non perdo tempo, ce la stiamo facendo, yeah. Giro a destra in una Tesla, manicomio nella testa. Plaza il nome nelle piazze, tu niente di interessante. Il bicchiere è sempre pieno e viola. Il mio amico con una ruota vola. Non sei Tony, non sei manco Sosa. Voglio il culo su una Tesla nuova. Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, e te stanno spiando dalla finestra, mi sembra chiaro che non mi interessa, a volte mi gira la testa, testa coda sto con la mia tipa su una Tesla, chiappe sode, emoticon della pesca, a 180 mettendo la sesta, lei mi dice rallenta ma mi gira la testa, testa coda sto con la mia tipa su una Tesla, chiappe sode, emoticon della pesca, a 180 mettendo la sesta, lei mi dice rallenta. Lancio soldi per aria, nulla mi cambia, nulla mi calma, bevo la mia bevanda. Succo rosa, sono una canaglia. Soldi più soldi, faranno una muraglia. Ehi, yeah, e ci cammino sopra con le scarpe nuove. Mo giro altre zone, bevo te Arizona. Gino most wanted, cavalco le onde, scrivo tutte parole. Compare ma è il migliore, Tesla energia come il sole. In tasca soldi da soli, voglio una Tesla arancione. Adesso tutto è migliore, adesso ho una ragione. Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, e te stanno spiando dalla finestra, mi sembra chiaro che non mi interessa, a volte mi gira la testa, testa coda sto con la mia tipa su una Tesla, chiappe sode, emoticon della pesca, a 180 mettendo la sesta, lei mi dice rallenta ma mi gira la testa. Testa coda, sto con la mia tipa su una Tesla. Già pesode, emoticon della pesca. A 180 mettendo la sesta. Lei mi dice rallenta, ma mi gira la testa.